Il Signore disse ancora a Mosè, nella steppa di Moab, presso il Giordano di Gerico: ordina ai figli di Israele che diano ai Leviti, come parte del loro possesso, città da abitare e anche i pascoli intorno alle città. Avranno le città per abitare, i pascoli per le loro bestie, i loro beni, i loro animali. I pascoli delle città che darete ai Leviti, dalle mura della città all'esterno, gireranno intorno per 1000 cubiti. Misurerete all'esterno della città, nel lato orientale, 2000 cubiti, nel lato meridionale, 2000 cubiti, nel lato occidentale, 2000 cubiti, nel lato settentrionale, 2000 cubiti, e la città sarà in mezzo. Questi saranno per loro i pascoli della città. Le città date da voi ai Leviti sono le 6 città di rifugio che darete perché vi fugga l'omicida, e oltre a quelle, 42 città. Tutte le città che darete ai Leviti saranno 48, quelle e i loro pascoli. Le città che darete proverranno dalla proprietà dei figli di Israele. Dal grande prenderete molto, dal piccolo poco. Ognuno, in base alla parte che ha ereditato, darà delle sue città ai Leviti. Il Signore disse a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: poiché passate il Giordano verso la terra di Canaan, designerete delle città che saranno per voi città di rifugio, dove fuggirà l'omicida che ha colpito qualcuno per inavvertenza. Le città saranno per voi un rifugio dal vendicatore, e l'omicida non morirà finché non sarà stato davanti alla comunità in giudizio. Le città che darete saranno per voi 6 città di rifugio. Darete 3 città al di là del Giordano e 3 città nella terra di Canaan. Saranno città di rifugio. Per i figli di Israele, per l'ospite e per chi risiede in mezzo a loro, quelle saranno 6 città di rifugio, perché vi fugga chiunque ha colpito qualcuno per inavvertenza. Ma se uno ha colpito un altro con un oggetto di ferro e quello muore, è un omicida e l'omicida sarà messo a morte. Se l'ha colpito con una pietra che aveva in mano, atta a dare la morte, e il colpito è morto, è un omicida e l'omicida sarà messo a morte. Se l'ha colpito con un oggetto di legno che aveva in mano, atto a causare la morte, ed è morto, è un omicida e l'omicida sarà messo a morte. È il vendicatore del sangue che farà morire l'omicida. Quando lo incontrerà, lo farà morire. Se uno, per odio, urta un altro, o gli scaglia contro qualcosa con premeditazione, e quello muore, o per ostilità lo colpisce con la propria mano e lo fa morire, chi colpisce sarà messo a morte, è un omicida. Il vendicatore del sangue farà morire l'omicida quando l'incontrerà. Ma se per caso, e non per ostilità, lo ha urtato o gli ha scagliato qualcosa contro senza pensarci, o se gli ha fatto cadere sopra una pietra con la quale poteva morire senza vedere ed è morto, e lui non gli era nemico e non cercava il suo male, la comunità giudicherà tra chi ha colpito e il vendicatore del sangue secondo queste regole. La comunità salverà l'omicida dalla mano del vendicatore del sangue e lo farà ritornare nella città di rifugio nella quale era fuggito, e vi risiederà fino alla morte del grande sacerdote unto con l'olio santo. Ma se l'omicida uscirà dal confine della città del suo rifugio nella quale era fuggito, e il vendicatore del sangue lo troverà al di fuori del confine della città del suo rifugio e ucciderà l'omicida, non c'è sangue su di lui, perché quello doveva risiedere nella città del suo rifugio fino alla morte del gran sacerdote, e dopo la morte del gran sacerdote l'omicida tornerà alla terra che possiede. Queste saranno per voi le prescrizioni giuridiche, secondo le vostre generazioni, in tutte le vostre residenze. Per chiunque colpisce una persona è secondo i testimoni che si ucciderà l'omicida, ma un solo testimone non può deporre contro uno per farlo morire. Non prenderete riscatto per la vita di un omicida che ha colpa per morire, perché sarà messo a morte. Non prenderete riscatto per chi fugge dalla città del suo rifugio, per farlo tornare a risiedere nella terra fino alla morte del sacerdote. Non contaminerete la terra nella quale siete, perché il sangue contamina la terra, e per la terra non si può espiare per il sangue che vi fu versato, se non con il sangue di chi lo ha versato. Non renderai impura la terra nella quale abitate, quella nella quale io abito, perché io, il Signore, abito in mezzo ai figli di Israele.